sea la tua misericordia sopra di noi, mentre speriamo in te. Sea la tua benevolenza sulle nazioni, mentre speriamo in te. Noi speriamo in te, nel tuo amore, nella tua bontà. Salvaci. Sia la tua misericordia sopra di noi, mentre speriamo in te. Sia la tua benevolenza, sia la tua benevolenza sulle nazioni, mentre speriamo in te. Puoi dirlo con me? Noi speriamo in te, nel tuo amore, nella tua bontà. Clamiamo a te e speriamo solo in te, tu che sei il Dio onnipotente. Oh, vuoi dire insieme a me? Amen. Salvaci. Salvaci, Signore, dagli un applauso forte. È colui che vive per te. È colui che regna.